sicuramente questa seconda accezione è la più consolidata. Poi recentemente si è affiancato l'andare in bianco, che indica appunto l'assenza del rosso della passione. Ok, allora bianco, anche questo lo associamo a diciamo tanti modi di dire, ovviamente. Sì, pensa alla paura, diventare bianchi come un cencio quando sì. Si è subito uno spavento fortissimo, essere bianco dalla paura, oppure le cose che succedono all'improvviso, di punto in bianco è successo che, di tutt'altra origine, il bianco della settimana bianca, che è abbastanza palese, trae spunto dal colore della neve. Dal colore della neve. Bianco è il lutto in alcune culture, sicuramente diverse dalla nostra, perché diamo per scontata l'associazione col nero, invece in altri casi troviamo non a caso il colore polarmente, il colore opposto, insomma il colore che al nero si oppone maggiormente, ovvero il bianco. Però io vorrei riagganciarmi a un discorso che abbiamo lasciato in sospeso trattando dell'azzurro la settimana scorsa. Perché? Perché l'azzurro insieme al blu e al bianco sono dei colori cavalcati nella pubblicità, e non soltanto italiana, perché il bianco è emblema della purezza, il blu è sinonimo della pulizia e dell'assorbenza, e per questa ragione ritroviamo in piegati in numerose pubblicità di detersivi e di assorbenti igienici. Abbiamo parlato del rosa, dei fiocchi rosa, del fatto che probabilmente si tratta di una abitudine che trae origine dall'associazione del rosa con la fertilità della donna rappresentata dal sangue mestruale. Abbiamo parlato delle due metà del cielo, e quindi vorrei spendere qualche parola su questo secondo aspetto, che è di difficile trattazione perché è connesso con i tabù e i loro effetti sul piano linguistico. Ne abbiamo parlato più volte nel corso di questo anno di Guerriero, e oggi vorrei cimentarmi appunto con il tabù legato al ciclo mestruale femminile, che, come è facile immaginare, è tutt'altro che recente. Anzi, posso dire, chiosando con un modo di dire molto noto, che si tratta di un tabù vecchio quanto il mondo. Immagina che norme di comportamento da tenere nei confronti delle donne durante il periodo delle mestruazioni si trovano già nel Levitico e poi anche nella Bibbia cristiana. Alcuni secoli dopo, nella Roma imperiale all'epoca dell'eruzione di Pompei, anche Plinio il Vecchio, scrivendo del sangue mestruale nella sua opera principale, si riferiva ad esso come una sostanza altamente pericolosa, infettiva, in grado di contaminare e deteriorare i cibi, di produrre carestie, esercitare influenze sfavorevoli. E non si tratta poi di una convinzione esclusivamente occidentale, la ritroviamo quasi identica nelle culture native dell'America settentrionale, in particolare presso le tribù canadesi, al cui interno esistono numerose regole per l'isolamento della donna mestruata. Perché andava, perché va isolata, perché va tenuta in una posizione sufficientemente lontana e rassicurante da non far temere agli uomini che, ad esempio, un'adolescente disattenta e sconsiderata nel corso della sua luna, un'espressione che commenterò tra poco, possa inciampare sulle loro gambe o bere dalla loro scodella, proprio per il rischio che ciò potrebbe comportare. Ora, non essendoci tempo a sufficienza per approfondire gli aspetti antropologici legati a questo argomento, mi concentrerò su un aspetto prettamente linguistico, ovvero sui termini di sostituzione. Perché? Perché quando abbiamo bisogno di parlare di argomenti che sono connessi con l'interdizione, come succede con le mestruazioni, per non nominare questi argomenti, quindi per questioni di decenza, ricorriamo a dei termini di sostituzione, e quindi ne ho raccolti alcuni. Si va da amenorrea, a essere indisposta, avere le regole, le mestruazioni, che poi letteralmente significa soltanto le mensilità, avere il menarca, cioè l'inizio del mese, essere in quei giorni, stare male, avere le mie cose, le mie faccende, le mie robe, avere le cascate, avere in visita il conte rosso, avere il barone rosso, il mar rosso, l'allarme rosso, avere ospiti a casa. Si trova addirittura, sono andata anche a cercare all'interno dei diari, si tratta di un argomento che, insomma, stuzzica piuttosto tanto l'attenzione, la curiosità del linguista, ho trovato anche: è arrivato Filippo, oltre al più tradizionale è arrivato il marchese. Sarà il marchese Filippo. È possibile. Ma anche avere il traffico o i traffici, oppure avere il tempo, avere visite, avere problemi tecnici. E la lista potrebbe continuare davvero a lungo. Anzi, io inviterei tutte le ascoltatrici, e perché no anche gli ascoltatori, a collegarsi alla pagina del Riposo del Guerriero e a segnalare le proprie forme. Perché? Perché quanto più ci si trova in un contesto informale, tanto più la fantasia si sbizzarrisce, producendo costruendo davvero un vocabolario dei termini di sostituzione che nel caso del coso e della cosa di cui abbiamo parlato, sì, ma anche nel caso delle malattie, delle deformità, tutto ciò che è connesso con l'interdizione è davvero lungo, davvero articolato e soprattutto non conosce fine. C'è una rigenerazione di termini davvero continua. Bene, allora invitiamo davvero gli ascoltatori e le ascoltatrici soprattutto a segnalare qual è il loro modo di dire, per dire che hanno il ciclo lunare, perché prima l'avevi accennato, no? Semplicemente sì, i giorni della luna, perché la luna ha il ciclo di 28 giorni. Dico bene, Francesca? Sì, quindi sì, è per quello che si chiama così, perché l'avevi accennato prima, e poi vedremo in una prossima puntata di Riposo del Guerriero, leggeremo, e comunque potrete anche leggere sulla nostra pagina Facebook, quali sono le nuove frasi che a te sono sfuggite, Francesca, ma come dicevi sono infinite, per cui sarebbe bello conoscerne ancora di più. Il sito è tuttopoli.com oppure appunto la pagina Facebook del Riposo del Guerriero. Chiaramente non ti auguro di passare una notte in bianco, ma di trascorrere invece una settimana azzurra e serena e anche rosa. Ciao, grazie Francesca. Anche a te, anche a voi, arrivederci. Il riposo del guerriero. È il momento di parlare di libri in questa puntata estiva del Riposo del Guerriero. C'è Alessandra Tedesco, ciao Alessandra. Ciao a tutti. Bentornata. Oggi il bianco io l'ho associato alla cultura, alle tradizioni, a quello che ci viene tramandato. Quello che ci viene tramandato sicuramente, di cui spesso ci dimentichiamo. Quando mi hai proposto insomma questo colore, hai parlato la cultura, le cose che ci vengono tramandate, dovevo scegliere dei libri, sì, naturalmente, di cui parlare. E il primo libro di cui mi è venuto in mente, che è il libro forse che amo di più, quello che mi ha cambiato veramente la vita, c'è un libro che cambia la vita, è Il vocabolario d'italiano. È una cosa che appunto ripeto spesso, perché io fin da bambina ero veramente affascinata dal vocabolario. Mi bastava aprire una pagina, leggere una parola magari che non conoscevo e scoprire tutto un significato. Poi magari non la ricordavo quella parola, però era un gioco, era un divertimento. Beh, tu pensa, abbiamo così iniziato parlando dei caroselli, i caroselli dedicati a Falqui. Come no? Basta la parola, erano giocati proprio sul significato delle parole. Si usava ogni volta una parola sconosciuta, tra virgolette. Parliamo di un'Italia che ancora. Un'Italia che doveva non essere era istruita, alfabetizzata. C'era una tanto. Televisione didattica. E quindi, insomma, la parola è sempre stata il fulcro, no, del sapere. La parola è stata il fulcro del sapere. Fra i vari vocabolari, io ho scelto un Devotoli, sì, che è un classico, e però un vocabolario che è appena uscito da pochissimo, è il vocabolario Devotoli dei sinonimi e dei contrari a cura di Maurizio Trifone. Allora facciamo un gioco, io apro una pagina a caso, ti dico una parola. Eccola. Ecco, duttile. Sì, morbido. Sì. Rigido mi viene in mente il suo contrario. Sì. Poi pastoso. Malleabile. Malleabile, va benissimo. Adesso sono tornati già più un poi po'. Poi c'è plasmabile, lavorabile, va bene, sì, cedevole, plastico. Sono stato bravo? Eclettico, multiforme. Superato l'esame. Hai superato l'esame. Ecco, l'unica cosa dei nuovi vocabolari che non sì, mi piace tanto è che sono colorati. La grafica è colorata. A me piaceva proprio la grafica neretto in nero e poi normale. Invece adesso con questi colori, insomma, vado un po' in difficoltà, ma sono io che sono anziana. Non diciamo niente. Allora, comunque, si consulta ancora il dizionario di sinonimi dei contrari? Io vorrei che si consultasse, questo sì. Non lo so, però, guarda, temo purtroppo che si vada sempre su Google, magari. Ma sai, con gli smartphone adesso tu metti. Sì, esattamente, però si perde il fascino della scoperta, insomma, di leggere qualcosa in più degli esempi. Io sono concorde con te, però come dicevi tu, siamo anziani. Siamo anziani, quindi va bene, va bene così, insomma. Parlando poi naturalmente di quello che fa cultura in Italia, mi è venuto in mente di parlare naturalmente dei libri che hanno vinto o che sono candidati ai principali premi letterari italiani. Sì. In Italia abbiamo 800 premi letterari, quindi impossibile parlare di tutti. Ne ho scelti due, i più importanti, i più prestigiosi. Il premio Strega, che è stato assegnato i primi di luglio a Roma, e il premio Campiello, che invece verrà assegnato il 7 settembre a Venezia. Sono anche, diciamo, i più datati. Sono i più vecchi, sì, assolutamente sono i più vecchi. Campiello 51esima edizione, Lo Streghe è stata l'edizione 67, se non ricordo male. Quindi, insomma, sono... quindi è per questo che sono anche più accreditati, perché comunque hanno una storia più importante. Una storia, insomma, prestigiosa in Italia. Considera che il premio Strega riesce a far vendere nelle settimane successive al vincitore almeno 100.000 copie. Tant'è vero che il libro che ha vinto quest'anno, Resistere non serve a niente, di Walter Siti, pubblicato da Rizzoli, aveva avuto un medio successo. Dopo la vittoria allo Strega è entrato subito in classifica, quindi questo ti fa capire quanto e anche cosa muove un premio letterario. È un po' come succede con gli awards, con i premi Oscar, no? Esattamente. I film magari non riescono ad avere quel grande successo, poi dopo aver vinto l'Oscar, anche il non il più importante, ma altri premi riescono. Devo dire il libro che ha vinto quest'anno lo Strega a me è piaciuto molto. Tra l'altro non si vedeva una vittoria così schiacciante da tantissimi anni, cioè il primo qualificato, sì, diciamo, ha avuto più del doppio dei voti del secondo in classifica. Quindi giuria tutta concorde. Una giuria abbastanza compatta. Questo libro racconta la storia di un ragazzo, Tommaso, un ragazzo di borgata, che poi finisce per diventare trader, perché i suoi studi vengono finanziati dalla malavita, insomma una cosa piuttosto complicata. Tommaso è un ragazzo bulimico, è obeso, ma è bulimico anche, lo diventerà poi per quanto riguarda i soldi e il potere. Così lo descrive Walter Siti. La bulimia gastronomica allude appunto a una specie di bisogno di possedere sempre di più, e quindi naturalmente diventa poi bulimia, diciamo, vitale nel momento in cui ha l'occasione, avendo poi invece un sacco di soldi a disposizione, di potersi impadronire del mondo, e quindi vuole una ragazza esattamente come lui sognava da piccolo, vuole umiliare le persone che gli stanno intorno e, diciamo, in qualche modo diventa una specie di delirio di onnipotenza, che però all'inizio era invece soltanto riservato ai bomboloni alla crema e cose del genere. Sì, all'inizio appunto è un ragazzo obeso, poi nel corso della storia lui diventa praticamente un trader, insomma gestisce dei fondi di investimento, sì, e quindi è un ragazzo destinato a diventare ricco. Infatti in una delle pagine di questo romanzo lei scrive: «La finanza ha surrogato l'obesità nel funzionare come antidoto al senso di colpa, come intercapedine tra sé e i desideri troppo personali. Anche il denaro, come il cibo, non racconta che se stesso, è anonimo e non distingue fra buoni e cattivi». Quindi Tommaso di fatto sostituisce la sua bulimia nei confronti del cibo con la bulimia nei confronti del possesso delle cose, ma soprattutto nel fare denaro, soldi. Sì, sì, sì. Insomma, il denaro, questo lo diceva già Marx ai suoi tempi, insomma, è una unità di scambio indifferenziata, no? Quindi con il denaro si possono poi comprare tutte le cose che si vogliono, e quindi diventa una specie di strumento per affermare per l'appunto la propria onnipotenza. Oltretutto ho l'impressione che una delle caratteristiche, diciamo, del mondo di oggi sia proprio il fatto che tra noi e la realizzazione dei nostri desideri si cerca di mettere meno barriere possibili, c'è una sorta di entropia, per cui mentre un tempo, diciamo nel tempo storico che conosciamo, almeno per l'Occidente, per passare da un desiderio alla sua realizzazione c'erano delle istituzioni, c'erano delle regole, delle norme, dei riti sociali, eccetera eccetera, adesso si ha un po' l'impressione che queste cose stiano saltando e che l'illusione è che si può solo allungare la mano per prendere quello che si vuole. Ecco, un'illusione, appunto, giusto. Un'illusione, decisamente. Mi piace molto, mi mette un po' di angoscia il pensiero che sta dietro questo romanzo, ma mi piace molto questa associazione. È un romanzo a tratti, potrebbe apparire angosciante, ma veramente scritto bene, bello, molto realistico anche. Bravo. Bravo, bravo Walter Siti. Invece passiamo a quelli che potrebbero essere, a quello che potrebbe essere, sì, il vincitore dell'altro premio italiano di letteratura, che è il premio Campiello, che verrà assegnato il 7 settembre alla Fenice di Venezia. Allora, rapidamente, 5 sono i finalisti. Quest'anno ci sono anche degli scrittori giovani, anche poco noti. come Giovanni Cocco con il romanzo La Caduta, un romanzo apocalittico. Si parla di New Orleans, dell'alluvione, poi le banlieue in Francia, gli attentati di Londra, veramente mette insieme tutta una serie di cose, ed è un romanzo pubblicato da Nutrimenti. Anche questa è una novità, perché Nutrimenti è una piccola casa editrice, quindi non è così semplice che le piccole case editrici arrivino in finale ad un premio letterario. Poi c'è Geologia di un padre di Valerio Magrelli, pubblicato da Einaudi. Magrelli ha preso degli appunti durante gli ultimi anni di vita del padre e poi li ha messi insieme, raccontando la vita del padre attraverso questo insieme di appunti, un romanzo molto toccante. Poi c'è Tentativi di botanica degli affetti, scritto da Beatrice Masini, pubblicato da Bompiani. Quando c'è stata la selezione da parte della giuria dei letterati, qualche critico ha storto un po' il naso su questo titolo. Ah, Tentativi di botanica degli affetti, sembra quasi una chick lit, insomma un romanzetto leggero. Invece no, è proprio un romanzo ben strutturato, è ambientato nell'Ottocento, c'è una signorina della buona società che però insomma cade in disgrazia, viene ospitata a casa di un poeta e disegna, dipinge degli acquerelli le piante che questo poeta ha in questo giardino, e attraverso questi acquerelli in realtà descrive i personaggi che girano intorno a questa casa, da qui i tentativi di botanica degli affetti. Poi c'è L'ultimo ballo di Charlot, pubblicato da Sellerio, scritto da Fabio Stassi, dove l'autore si immagina lui insomma anziano ormai, a fine carriera, ha un figlio e non vuole morire, non vuole lasciarlo da solo. Allora fa un patto con la morte, dice alla morte: se io ti faccio vivere, se io ti faccio ridere, mi fai vivere un altro anno? Va avanti così finché insomma continua a far ridere la morte, lui continua a vivere, ma a un certo punto si rende conto che insomma prima o poi dovrà cedere, quindi inizia a scrivere una lunga lettera al figlio per raccontargli chi è stato lui veramente e non quello che gli hanno raccontato gli altri. E per ultimo ho lasciato L'amore graffia il mondo di Ugo Riccarelli, scritto da Mondadori. L'ho lasciato per ultimo appositamente perché Ugo Riccarelli purtroppo è morto a fine luglio, uno scrittore che io ricordo veramente con grandissimo piacere, l'ho descritto come un gran signore, veramente un gran signore della narrativa italiana. Purtroppo appunto ci ha lasciato a luglio. La giuria comunque del Campiello ha deciso che il libro è ancora in concorso, chiedendo alla giuria naturalmente la giuria popolare di non farsi influenzare da questa notizia, ed è la storia di una signorina che si chiama proprio così, signorina, che vuole fare la sarta, ma l'epoca è il fascismo, le difficoltà sono tante, i problemi non saranno pochi. Difficile scegliere, il 7 settembre scopriremo chi ce la farà. La spuntata. Grazie Alessandra. Grazie a voi. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Mi auguro davvero che molti di voi possano trovare il tempo in quest'agosto di giocare, anche di videogiocare, ma quello si fa forse di più d'inverno, poi siamo in attesa anche delle nuove console delle quali si continua a leggere e a parlare, poi vedremo effettivamente con le armi in mano cosa saranno e che cosa avranno più o meno, e diciamo che è un po' più facile giocare d'estate, anche se parleremo anche di videogiochi in questo momento di Riposo del Guerriero. Andrea Ligabue, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Il nostro ludologo, ed Emilio Cozzi invece, l'esperto di videogiochi. Ti piace il nome esperto di videogiochi? Io quando sento esperto già io... Mi tremano le gambe. Esatto. Comunque buongiorno. Grande appassionato, invece poi scrive di videogiochi anche sul Sole 24 Ore. Allora, Andrea Ligabue, giochiamo d'estate e cerchiamo di... Siccome lo sappiamo, giochi, videogiochi sono cultura, questo è assodato, però ci sono dei giochi che hanno la cultura come tema centrale. Sì, allora partirei parlando di giochi presi da dei libri, perché i libri, diciamo, sono per tutti cultura e non c'è dubbio per nessuno che il libro sia cultura. Ne dipende anche dal libro, sì, però, posso dirlo, sì. Però, sì, diciamo, è più collegato il concetto di cultura al libro. Allora, i due giochi che cito solo come nomi sono giochi molto belli, giochi da tavolo classici, quindi con plancia, pedine, carte, sono I Pilastri della Terra e Mondo Senza Fine, tutte e due presi da romanzi famosi di Ken Follett ed entrambi editi in Italia da Giochi Uniti. Sono giochi che consiglio anche solo per la bellezza dei materiali e della grafica, ci sono delle illustrazioni e dei materiali veramente fantastici, oltre a essere dei giochi con delle meccaniche divertenti e molto belli. E più due giochi usciti tutti e due quest'anno, curioso che nello stesso anno escano due giochi con lo stesso tema. Si chiamano Naufragos e Robinson Crusoe e sono entrambi giochi basati sul romanzo appunto di Robinson Crusoe. Entrambi hanno la caratteristica di essere giochi collaborativi, ovvero i giocatori sono naufraghi su quest'isola e devono riuscire a salvarsi. Robinson Crusoe è purtroppo al momento non ancora disponibile in italiano, ma ne stanno curando l'edizione, quindi probabilmente entro fine anno, se non agli inizi dell'anno prossimo, sarà presente l'edizione italiana. È un po' più complessa, è un gioco più da giocatori con aspetti strategici un po' più profondi. Naufragos invece è un pochino più semplice, più adatto anche a un pubblico meno di appassionati, e qua l'aspetto collaborativo è centrale ma non fondamentale, nel senso che tutti i giocatori nel corso della partita accumulano punti che corrispondono alle note del loro diario che stanno scrivendo. Quando arriverà la nave che li salverà, i giocatori che vengono salvati, perché sono in quel momento disperso nell'isola, non viene salvato, chi avrà scritto più note, quindi avrà il diario più appassionante, più ricco, esatto, certo, più ricco, vincerà la partita, perché sarà il naufrago che verrà ricordato dalla storia. Ma invece collaborare è fondamentale per andare avanti? Sì, se non si collabora nel corso della partita nessuno vince, perché bisogna fare tutta una serie di cose che si riescono a fare solo insieme, come fare delle grandi scritte sulla spiaggia, oppure costruire una grande pila di legna che gli aerei possano vedere, oppure esplorare tutta l'isola per riuscire ad arrivare a scoprirne i segreti e a costruire un accampamento che permetta di sopravvivere. E in questa fase, se non si collabora, non si vince. Però durante questo svolgimento del gioco ognuno accumulerà questi punti che sono tenuti segreti, quindi uno non sa quanti punti vittorie in effetti ha l'altro. Quindi solo alla fine si scoprirà, esatto, lo scrittore migliore, lo scrittore, diciamo così, migliore. Un altro gioco invece che parla di cultura proprio in maniera intrinseca nel suo meccanismo di gioco è Innovation. Innovation è un gioco di carte dall'apparenza complesso, ma in realtà dopo un paio di partite diventa molto lineare, in cui i giocatori ripercorrono la storia dell'umanità praticamente dalle origini all'immediato futuro tramite le invenzioni importanti che hanno cambiato il corso della storia. Quindi nel corso della partita i giocatori avranno davanti a loro delle carte invenzioni, all'inizio ovviamente quelle delle ere più antiche, man mano delle ere più moderne, e tramite queste carte invenzioni potranno eseguire delle azioni, interagire con gli altri giocatori e man mano svilupperanno la loro civiltà, e alla fine della partita chi è riuscito a fare meglio vince. Il gioco è prodotto in Italia da Asterion Press ed è presente in lingua italiana. Quindi si partono dal fuoco, la ruota, l'energia elettrica, esatto, poi arriva, esatto, la rivoluzione industriale, macchina a vapore, esatto, fino alle, diciamo, l'energia nucleare, le fino cose. A tornare poi all'inizio, esatto, no, tra l'altro tornare all'inizio è vero, perché c'è una carta, un'invenzione che causa l'esplosione, la guerra nucleare, che azzera praticamente la partita, quindi tutti ritornano ho visto giusto, non conoscevo il gioco. Ma senti, giochi tipo Trivial invece, insomma, sì, i classici, quelli delle domande. Esatto, Trivial è sicuramente il capostipite di una serie di giochi che basano la loro meccanica sulle conoscenze che hanno i giocatori di certi argomenti. Io più che Trivial ve ne consiglierei due o tre, diciamo tre. Allora, uno si chiama Timeline, che è un gioco sempre di Asterion Press, in cui i giocatori devono mettere in ordine cronologico degli avvenimenti storici. Uno sa qual è l'avvenimento ma non sa la data. Uno deve indovinare, mettere le carte nell'ordine giusto, e chi ci riesce fa dei punti, chi non ci riesce, adesso senza entrare nel dettaglio della meccanica. Su un meccanismo simile c'è Anno Domini, che sono una serie di giochi pubblicati da Divi Giochi e sono tematici. Ad esempio c'è Anno Domini sui pittori, oppure c'è quello sugli avvenimenti bizzarri. Cioè ognuno gioco ha un set di carte tematico e il meccanismo di gioco è più o meno lo stesso, cioè i giocatori devono riuscire a ordinare questi avvenimenti in maniera cronologica. Prima Giotto, prima Picasso, cioè esatto, quello è il livello, esatto, così è facile. La difficoltà, poi, no, però magari se non l'autore stesso, però il quadro, è stata fatta prima la Gioconda o il quadro famoso di Piero della Francesca? Sinceramente io... Il giudizio universale o la Gioconda? Questo è interessante. Ecco, non lo so. Invece un gioco sempre di Divi Giochi che si basa invece sulle conoscenze geografiche è la serie Uppsala. il meccanismo dei giochi della serie Uppsala, bisogna mettere in ordine, in corrispondenza geografica, delle città o d'Italia o d'Europa o del mondo. Ad esempio, si parte da una città, supponiamo che la prima città sia Pescara, e i giocatori che giocano le carte successive devono metterlo a nord o a sud di Pescara o a est o a ovest di Pescara, e man mano inserire le carte in questa, diciamo, croce che ha Pescara come al centro. E anche in questo caso non è immediato, ad esempio sapere se è più a ovest, Aosta o Palermo non è una cosa immediata. Bisogna sapere longitudini e latitudini, esatto. In questo caso longitudini di tutto, per riuscire a scoprirlo. Però vedi che è veramente cultura, nel senso che devi imparare, e poi impari anche a leggere una carta geografica. Sì, no? Dopo sicuramente giocandoli spesso questi giochi qua, specialmente i bambini che hanno fortunatamente una memoria ancora ricca e capace di accogliere informazioni, effettivamente hanno delle conoscenze geografiche lo superiori. Dico perché noi ormai, usando il navigatore satellitare, io uso il navigatore satellitare perché la mappa la so leggere, ho sempre imparato. Però invece chi non ha mai visto una mappa, cioè chi non l'ha mai usata, davvero si perde, perché non ha capito dove sta andando, e invece è fondamentale capire dove stiamo andando. Dico, come un grande comico dice, dove stiamo andando. Esatto. Perché col navigatore dici, devo andare lì, ma non sai dove stai andando veramente. Magari scopri che il posto era semplicemente dietro, 100 metri dietro di te, solo che il navigatore ti fa fare un giro. Ma perché tu pensa con la che è abituato a disegnare con AutoCAD e non ha mai preso in mano una matita per un disegno tecnico. Insomma, credo che il problema sia più c'è più questo, dici anche. Qui credo di sì, una fenomenologia contemporanea interessante. Insomma. Vediamo, vabbè. Allora, cultura e videogiochi. Beh, allora, visto che tu sei un pioniere dell'ambito, lo presiamo una provocazione, perché per me il videogioco è sempre cultura. Sì. Sempre, assolutamente. Quindi parlerò di libri quest'oggi. Bravo, fai molto bene. Parlerò di libri che in qualche modo abbiano a che fare o per tema o per suggestioni con i videogiochi. Beh, anche perché alcuni videogiochi sono stati tratti da libri e viceversa. Sono nati dei romanzi proprio grazie alle storie nate dai videogiochi. Oddio, poi sulla qualità degli stessi ci quello sarebbe molto da discutere. Quello è un altro discorso, però, hai ragione. Comunque, no, se vuoi discutiamo. Quanto vuoi. La qualità non è eccelsa, non lo è eccelsa, diciamo. Non è sempre eccelsa. Ecco. Mentre invece il contenuto di un videogioco spesso e volentieri è eccelso, anche se il videogioco può essere equivoco, può essere, penso a Grand Theft Auto, penso a videogiochi anche più come dire esplosivi o più controversi, spesso e volentieri il portato di valori, il portato di ideologia di un videogioco è da analizzare. Lo fa molto bene una collana dedicata, si chiama Ludologica, la pubblica Unicopli, diretta da Matteo Bittanti e Canova, sono nomi noti anche nell'ambiente, che si occupa in maniera specifica di interpretare il videogioco come artefatto culturale, nel bene e nel male. Dire che il videogioco cultura non significa dire che è una cosa positiva. La cultura, come dire, esatto, il concetto è estremamente, estremamente largo. Poi invece ci sono, come dire, esponenti intellettuali di grido che si sono dedicati con, come dire, qualità anche in quel caso altalenante, però, esatto, però con spesso e volentieri al videogioco. Penso a Martin Amis, lo cito perché un suo libro, The Invasion of Space Invaders, un libro degli anni Ottanta, fu poi, quando Amis è diventato Amis, un grande autore britannico, fu poi dall'autore quasi rinnegato. Chi lo intervistava a proposito si prendeva o degli schiaffi o semplicemente la fine dell'intervista. Ebbene, dopo 20 anni, libro dell'inizio degli anni 80, Amis non era ancora, per quanto figlio di, non era ancora diventato l'autore che è adesso, in Italia ISBN lo ha ripubblicato recentemente. Il libro si intitola L'invasione degli Space Invaders e ha una piccola introduzione di un ragazzo che al tempo aveva appena iniziato a fare regista, non è vero, tale Steven Spielberg, che era appena uscito con un film intitolato E.T. che introduce Amis, quindi il libro è estremamente interessante anche per quello. Essendo degli anni 80 parla di Space Invaders, parla di Pac-Man, ai tempi però intravedendo comunque la rivoluzione culturale dei videogiochi che ci sarebbe stata, esattamente. Altri libri, Storie straordinarie per vite ordinarie di Multiplayer.it edizioni, una raccolta di testi presi da chi si occupa di videogiochi o da chi ha avuto l'ispirazione, Alessandra Contin, Tullio Avoledo, quindi anche scrittori noti, della stessa casa editrice che per esempio pubblica una storia eccezionale di Nintendo in 3 volumi, veramente veramente eccezionale, una ditta che ha 100 anni di storia. Anche io la consiglio per chi non ama i videogiochi, è molto, molto interessante, esatto, capire le dinamiche che hanno portato Nintendo a essere quella che è. Assolutamente sì. Oppure Come un videogioco, anche in questo caso un classico del settore, James Paul Gee, quindi un grande linguista anche che ha fatto storia già negli anni anni 70, che dice, cosa che abbiamo già affrontato a Riposo del Guerriero una o due domeniche fa, come il videogioco possa essere un modello di insegnamento, un modello didattico con veramente pochi rivali, dall'efficacia difficilmente equiparabile anche dal sistema didattico tradizionale. Anzi, suggerisce Guy che il videogioco vada preso come un esempio, appunto, come un videogioco. Prego. No. Concludo con un pessimo esempio, la grande blasonata Jane McGonigal, che dice che attraverso il videogioco si possa salvare il mondo. Il suo libro in realtà è La realtà in gioco, pubblicato da Apogeo in Italia. Io non sono per niente d'accordo con quello che dice Jane, perché lei dice che il videogioco è serio solo e quando, come dire, è tramite per fare qualcos'altro. Secondo me no, è serio comunque. Io concordo con te, sai che concordo sempre con te, ma quando il videogioco è vincente, per forza di cose devo esserlo. Emilio Cozzi, grazie. Andrea Legabue, anche a domenica prossima. Il riposo del guerriero. Marta Cagnona di bianco vestita, devo dire di no, però insomma è un colore dell'estate sicuramente. Ipotizziamo, siamo in radio, possiamo raccontare quello che vogliamo, ipotizziamo che sia così, e io ti immagino di bianco vestita in una saletta cinematografica a vedere l'anteprima di un film che ci racconterai. Sempre. Bianco, io ho avuto questo input dal nostro Giorgio De Luca. Bianco, giornata della domenica destinata alla cultura. Allora, nei giorni scorsi mi sono un po' così informata, un po' studiato per vedere un po' di novità, come stiamo facendo in queste settimane sulla prossima stagione cinematografica, televisiva, musicale. Beh, insomma, ho detto cultura, i film lo sono sempre. Sì. Io sono convinta che un film sia come un viaggio, come un ristorante, come un libro, qualsiasi cosa tu faccia di nuovo ti ha aperto una finestra, una porta, quindi anche il film più brutto, però ti ha insegnato qualcosa. Però ho detto, perché non andare a vedere se c'è qualche film tratto da un libro famoso? Sì. Ebbene, il 17 ottobre, in tempo per il mio compleanno, li compirò qualche giorno dopo, un regalo per me. Allora, io ho amato... No, non dirmi che è quello che penso, ti prego. Okay. Non dirmi... Comincia con 50? No, okay, no, basta. No, ti prego, no, però ne parleremo, sai. Chissà, avevo un'intuizione, meno male, no. Ne parleremo, no, uno dei libri che ho amato di più nella mia vita da ragazza, perché è uscito qualche annetto fa, Il Paradiso degli Orchi. Insomma, Benjamin Mallossen, Daniel Pennac, l'autore, l'abbiamo amato tutti moltissimo negli anni 90, andava particolarmente di moda leggere tutti i libri di Daniel Pennac, grande scrittore francese, e finalmente esce il 17 ottobre appunto l'edizione cinematografica del Paradiso degli Orchi. Chissà se qualcuno si ricorda la storia di Benjamin Mallossen, che insomma forse adesso si legge un po' meno, ma sarebbe bello anche recuperarlo. Sicuramente succederà, uscirà in libreria il libro con la fascetta, il libro l'edizione magari del film, anche, così. Benjamin Mallossen cosa faceva di mestiere? Il capro espiatorio. Lui lavorava ai grandi magazzini. Questo è Pennac proprio. Certo, lui lavorava ai grandi magazzini e ogni volta che c'era un guasto, un oggetto difettoso, lui faceva il capro espiatorio, andava a prendersi la colpa di tutto, veniva chiamato all'ufficio reclami con la sua parte da recitare, doveva impietosire l'acquirente di modo che questo potesse ritirare il reclamo, perché insomma arrivava il capro espiatorio. Certo. Così. Cosa succede dopo l'ennesima volta in cui lui recita la sua parte? Scoppia una bomba e da lì si scatena tutta la storia del Paradiso degli Orchi, con questa famiglia Mallossen straordinaria, con un sacco di personaggi divertenti. Io sono molto curiosa, io che amo molto il cinema francese, sono molto curiosa di vedere questa mise en scène, questa così versione cinematografica del Paradiso degli Orchi. Ci sono due attori particolarmente importanti, che sono Emir Kusturica e Bérénice Bejo, che è il volto francese più amato in questi anni, insomma. Quindi sono molto curiosa di capire come sarà questa versione cinematografica, non di 50 sfumature, no, perché capito. Lo so che tu pensavi, sì, no, ma sì, perché ecco, perché siccome a tempo a colore debito è stato un romanzo di successo e stanno facendo qualunque cosa legata a mi stai guardando con una faccia. Ebbene, ce lo dobbiamo assorbire, possiamo anche no, però no, ne parleremo. Ma, no, io l'ho letto il primo, ho letto il primo, poi anche. Ti sei sfumata abbastanza, ecco. Sì, sì, sì, ho un po' più di 15 sfumature, che sono 50 la trilogia, cioè un po' di più. Però, insomma, basta, ho letto uno. No, ho fatto la brava, ho letto. Tra invece, così andando sempre tra cinema e cultura, io sono anche molto, io sono una appassionata di documentari, sì. E sono molto curiosa quando un documentario riesce ad approdare al cinema, perché fortunatamente negli ultimi anni ci sono canali molto belli come Sky Arte che riescono a fare vedere i documentari anche a noi fan del documentario, ma quando un documentario arriva al cinema... vuol dire che c'è qualcosa, c'è qualcosa di straordinario. Sì, questo è vero. Il 10 ottobre uscirà nelle sale Vermeer e la musica, l'arte dell'amore e del piacere. Vermeer, musica, amore, piacere e cinema. Io direi che abbiamo fatto cinquina e quindi il 10 ottobre possiamo andare a vedere questo film. Giovedì 10 ottobre, perché ricordiamo ormai da tanti mesi i film escono il giovedì. Perché così si riesce a recuperare un pochino sul fine settimana, si allunga un pochino il fine settimana e si riesce a incassare un pochino di più. Sì. Ecco, tra l'altro io proprio su questo volevo anche invitare gli ascoltatori a guardarsi i corti. Ormai grazie a internet i corti sono godibilissimi, si vedono gratuitamente perché su YouTube si trovano tranquillamente, perché la qualità dei corti oggi è veramente altissima, sono belle le storie, sono realizzati molto bene anche con molto poco, e si può dimostrare come con pochi soldi, quindi con un budget ridotto e scarso, è possibile raccontare delle belle storie, perché poi nei corti molto spesso a vincere è proprio la sceneggiatura, che è l'arma vincente dei 5 minuti, 10, massimo mezz'ora di storia. E poi sono spesso l'anticamera dei grandi successi televisivi o cinematografici, quindi stando magari attenti ai corti di successo, ai nuovi talenti, si può scoprire con un certo anticipo chi saranno le firme poi dei film del futuro. Delle serie che sono partite anche recentemente su YouTube. Horror Vacui, per esempio, è una serie che è nata proprio un mesetto fa e che appunto racconta delle vicende, poi vedremo se sarà successo o meno, ma è un modo anche per sperimentarsi, per trovare anche nuovi attori, per cercare di raccontare storie che al cinema non trovano posto semplicemente perché non ci sono investimenti in questo senso. I produttori vogliono andare ormai sul sicuro. Sicuro, anche in televisione purtroppo. C'è da dire però che c'è un rovescio della medaglia. Io qualche settimana fa ho parlato con i The Pills, che sono tre giovani romani molto simpatici che fanno della comicità in rete, e ho chiesto loro provocatoriamente: ma ci fate i soldi? Oppure sperate poi che tutto questo approdi in televisione? Loro hanno dovuto ammettere che effettivamente è poi così, è un investimento. È un investimento, poi si spera di farsi notare, soprattutto appunto per dei comici, l'approdo naturale, la TV, e quindi insomma... E non sempre va bene, lo dico subito, perché moltissimi sono gli esperimenti in questo senso, anche di cose di grande qualità che però poi non hanno avuto posto, purtroppo, malgrado la qualità. Abbiamo parlato di TV, andiamo avanti con la TV? Sì. 2013-2014, questa stagione che sta per iniziare, abbiamo parlato di un film tratto da un libro, quindi Il Paradiso degli Orchi, Pennac, Malossène, eccetera. Arriverà in realtà all'inizio del 2014, perché stanno ancora ultimando le riprese, Gomorra, abbiamo letto il libro di Roberto Saviano. C'è la serie televisiva. Arriva la serie televisiva. Io qualche mese fa sono stata sul set in provincia di Napoli, ho visto la cura delle riprese, ho visto veramente gli investimenti massicci che ha fatto Sky per questa serie, che appunto andrà in onda su Sky e andrà in onda anche sulla 7, quindi poi successivamente per chi non è abbonato alla TV satellitare riuscirà a vedere comunque appunto questo evento di Gomorra, creato per la prima volta all'americana, cioè si importa anche in Italia il concetto dello showrunner. L'ho già menzionato qualche volta a Radio 24, sembra sempre una parolaccia, invece è un concetto molto interessante. Lo showrunner non è solo il regista, ma è proprio il deus ex machina, è colui il quale ha nelle mani l'intero progetto. In questo caso è Stefano Sollima, che abbiamo già visto in Romanzo Criminale, ma anche al cinema con ACAB, che dirige tre registi. Uno è se stesso, insomma, uno dei tre registi della serie, ma ci sono anche Claudio Cupellini e Francesca Comencini, in tre, quindi tre mani diverse, per... Ma con un supervisore. Con un supervisore che è una linea. Dei tre, che è una, cioè. Esatto, succede nelle serie americane che non hanno sempre lo stesso regista. No, non sarebbe neanche possibile. Anche gli sceneggiatori cambiano. Cambiano, sono ma tanti. C'è lo showrunner, che è questo Deus Ex Machina, che ha proprio tutto il grosso progetto tra le mani, e questo... Questo modello viene finalmente ripreso anche in Italia da Gomorra, che dovrebbe arrivare a febbraio 2014. Noi stiamo parlando soprattutto di cose che escono tra settembre, ottobre e Natale, ma questo sarà secondo me veramente un grandissimo evento, quindi l'attesa sta già salendo. La musica, cultura, insomma. Diamoci un po' un tono, non parliamo solo di rock e di pop, parliamo anche di musica seria, perché ne sappiamo. Anche se rock e pop è seria comunque. Ma stiamo scherzando, ma certo, ma io più pop di me non c'è nessuno, però parliamo anche un po' di musica pesante, invece della musica leggera, sì, nel senso di peso specifico. La Scala. Sì. Mesi di ansia per la nomina del nuovo sovrintendente. Sì. Qualche mese di polemiche, perché insomma c'era un anniversario che riguardava Verdi, un anniversario che riguardava Wagner, due bicentenari, l'anno scorso l'inaugurazione, il Lohengrin di Wagner, tutti a dire: ah, ma perché non polemica avete scelto inutile, Verdi? Comunque ma sia, inutilissima, vabbè, abbiamo già detto e stradetto. Inutilissima. Ma perché non abbiamo scelto Verdi? Perché Verdi arriva quest'anno. Uno festeggiava l'inizio dei due bicentenari e l'altro festeggia il completamento. Insomma, il 7 di dicembre siamo già tutti pronti alla Scala per la Traviata, regia del russo Dmitri Cherniakov, sul podio Daniele Gatti. E, beh, insomma, è un bel inizio. A me la Traviata piace. Poi, insomma, sono anche quelle opere che sono molto vicine al nostro sentire. A volte i tedeschi non lo sono così tanto, invece questo tipo, il melodramma italiano è proprio vicino alle nostre... È proprio il melodramma, sì, ecco, è proprio M maiuscola. È proprio il nostro. Peraltro, nella stagione d'opera, 7 titoli su 10 saranno di autori italiani. Appunto, la Traviata, ma Verdi ci sarà anche col Trovatore, col Simon Boccanegra, Rossini, Donizetti, Mascagni, e poi ci saranno anche Berlioz, Strauss e Mozart, perché così un bel Così fan tutte ce lo godiamo. Così siamo riusciti a accontentare veramente tutto il panorama, no? E abbiamo tacitato tutte le polemiche, ecco. Taciteremo anche quelli che non sono stati contenti della nomina di un sovrintendente straniero. Vedremo, ma la musica non ha confini, eccetera. Non eccetera, deve eccetera, assolutamente eccetera. Averla, come non ne hai tu. Grazie, ciao Marta Cagnola. Alla ci prossima settimana. Vediamo domenica prossima. Il riposo del guerriero. Già ho la colina in bocca, questo è il momento di riposo del guerriero dedicato a tutto quello che ha a che fare con la cucina, la gastronomia, il buon bere, lo vedremo anche dopo con il gastronauta, ma adesso facciamo questa associazione tra cibi e film grazie a Marco Lombardi, il nostro cinegustologo. Ciao Marco, il bianco, che cosa ti ha fatto pensare? Eh beh, il bianco, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Il bianco, insomma, il bianco è la pasta, c'è poco da fare. La pasta che oltretutto ha una sua vestizione estiva, perché ci sono i primi freddi, ci sono insomma le paste fredde, il riso in insalata, quindi nonostante sia a livello calorico una tipologia di piatto molto autunnale, invernale, di fatto è un piatto che funziona tantissimo freddo nel periodo estivo, e sia il riso in insalata che la pasta fredda sono composti, come tutti, insomma, tutti questi piatti di pasta, da una pluralità di componenti. Il riso, tu sai quanti chicchi di riso ci sono in un piatto di riso? Sì, sì, di solito io mi fermo sempre a contarli uno a uno, perché è proprio una cosa che faccio sempre. Guarda. Io speravo che tu mi dicessi un numero, come faceva Raffaella Carrà. Ma come faccio? Con quella, la boccia dei fagioli. Non ne ho la più pallida idea, potrei dire qualunque cosa. In effetti anch'io potrei dire qualunque cosa, speravo che tu invece mi aiutassi. No, non ho invece una risposta. No, niente. Rimarrà un quesito. Chiediamo a Mebius, va, ecco, per capire quanti mediamente quanti chicchi di riso ci stanno in un piatto. Ecco. Sì, però una volta nella vita sta cosa la si potrebbe fare. Sì. Vabbè. Se c'è un ascoltatore che ha un po' di tempo a disposizione, scriveteci, si sta annoiando in spiaggia, vabbè. E quindi insomma il riso in insalata ha questa pluralità di chicchi, anche la pasta fredda pure, quindi banalmente a me fa pensare questa tipologia di piatto a quei film corali dove ci sono una molteplicità di personaggi e non c'è proprio il protagonista, o meglio sì, magari c'è qualcuno che è più importante degli altri, ma poi le interazioni tra tutti sono così profonde che il protagonista è l'insieme dei personaggi. E questa tipologia di film mi ha fatto pensare sul riso in insalata, al cinema a due film di Giuseppe Tornatore. Perché? Perché il riso, poi a seconda del tipo di film, ci sono, nell'insalata di riso c'è il wurstel, c'è la cipollina in agrodolce, c'è il pomodoro, insomma ci si può mettere veramente un po' di tutto e di più, quello che casca a volte anche casualmente dentro il piatto. Insomma, l'amido nel riso lo sentiamo, se il riso non è cotto nemmeno troppo bene un po' si può anche appallare, e mi fa pensare un po' alla iperdrammaticità molto amidosa, sto usando dei termini che non esistono in italiano, spero che questa cosa si capisca. La Dragotto ti perdonerà, il nostro glottologa ti perdonerà sicuramente. Infatti, meno male. E che è quella, ad esempio, di Nuoci in Paradiso, quindi è un film sentimentalmente molto, molto attaccato in senso proprio sentimentale, ecco, tutti i personaggi sono incollati l'uno all'altro, stanno insieme e anche il tipo di sensazione è difficile da buttare giù, perché comunque è un film profondamente drammatico anche se profondamente emozionale e sentimentale, ma anche quella, ad esempio, la molteplicità dei personaggi di Baria del 2009, e quindi Insalata di riso e Giuseppe Tornatore, speriamo che non ci ascolti e non si arrabbi, mentre questo invece purtroppo per noi non ci potrà ascoltare, o forse ci ascolta da qualche altra parte e lui sono sicuro si metterà a ridere. La pasta fredda invece è Federico Fellini. Federico Fellini al suo interno c'ha meno personaggi e comunque, anche se ne ha un numero pari a quelli di Giuseppe Tornatore, hanno una loro maggiore identità, sono più separati, per dirla filosoficamente sono delle monadi più staccate le une dalle altre, e qui sono due i possibili riferimenti: Amarcord del 73, capolavoro assoluto anche qua del cinema non solo italiano ma di sempre, che è tutto un collage dei ricordi d'infanzia, quindi con una marea di personaggi che il Fellini giovane ricorda, e poi Prova d'orchestra invece, che è un film politico, un film sempre molto purtroppo attuale del 75, dove invece sono i singoli componenti di un'orchestra che non si riescono a mettere d'accordo come anche noi nelle riunioni condominiali, figuriamoci in Parlamento, ed è quindi un film profondamente metaforico, insomma è freddo, come spesso, insomma, come è sempre Federico Fellini. Ebbene sì. Poi vorrei ascoltare invece questa insomma battuta tratta da un film famosissimo che poi si collegherà a una delle paste ovviamente che tu hai associato al bianco in questa puntata del Riposo del Guerriero. No, guardi, no, non si può mica parcheggiare in il Camposanto, no, non si vuole. Sbiriguda, supercazzola prematurata. No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no. Non si può parcheggiare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale. Ispettore, ma che dici? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana, o setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina, non si capisce niente ovviamente, insomma è diventato poi un modo di dire, addirittura ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa con Francesca Dragotto, la nostra glottologa, abbiamo scelto quindi questo momento Gli amici miei del 75. Tu a cosa l'hai associato? Dunque, qui adesso rientriamo nei primi caldi, secondo me è uno spaghetto alle vongole, che è anche uno di quei piatti da mare, perché secondo me uno c'ha un giorno di ferie all'anno, va al mare e ci vuole lo spaghetto, come la birra sulla sedia sdraio davanti al mare, tipo Homer Simpson, lo spaghetto alle vongole davanti al mare è un altro must proprio. Allora, amici miei, c'è questa scivolosità che è data proprio dallo spaghetto, c'ha la dolcezza della pasta, c'ha la morbidezza dell'amido e anche però un minimo di durezza se non è, insomma, se un po' al dente, che è la durezza del film, perché comunque questa è una grande commedia, ma è un grande film drammatico alla fine, perché questi cinque amici se la raccontano, fanno finta, insomma, attraverso i giochi di avere delle vite felici e di fatto non ce l'hanno, ma poi queste componenti drammatiche secondo me ritornano nell'immancabile sabbietta che viene fuori nello spaghetto alle vongole, perché quasi sempre non sono state spurgate a dovere, per cui uno mangia lì tutto bello come sta vedendo, e poi gli amici capita miei, quello scrocco sotto lì, che magari gli spacca pure il dente. Speriamo di no, per l'estate è un disastro. No, vabbè, capita raramente, però ogni tanto capita ed è un'esperienza che si ricorda. Ed è comunque un rischio che si corre, che è esattamente il rischio che si corre vedendo anche Amici miei. Ci si diverte, si ride tantissimo, però sempre con la lacrima dietro l'angolo. Mentre se togliamo le vongole e allo spaghetto ci aggiungiamo lo scoglio, in senso anche qua metaforico, perché sennò sarebbe ancora più indigesto, quindi vuol dire ci mettiamo i gamberi, gli scampi, sempre anche un po' di vongole, insomma tutte quelle cose strane che si trovano nel mare, consentite e non consentite, viene fuori lo spaghetto allo scoglio, che secondo me ha qualche cosa di sia a livello cromatico, poi nel fatto che il sugo viene consumato più lungo, i singoli crostacei e i pesci perdono un po' le loro consistenze, diventa poi una specie di mare magnum dei prodotti appunto del mare, e quindi mi fa pensare, non so, all'atmosfera degli spaghetti western, non a caso si chiamano così, dove questa antiepicità dei personaggi degli spaghetti western, non so, quelli del Buono, il Brutto e il Cattivo del 66, oppure ancora di più Django di Corbucci, ma non il Django di Tarantino, sì, quello recente, quello vero, diciamo così, quello vero, primo Django, rimanga fra me e te, che secondo me vale 10 volte rispetto all'ultimo Django Unchained di Tarantino, e insomma hanno questa sugosità e questa collettività un po' cacciarona, che è quella dei personaggi della commedia all'italiana, da cui poi sono nati gli spaghetti western, quindi insomma dei cialtroni, ecco, i cialtroni del sorpasso, il cialtrone Vittorio Gassman in quel film, alla fine, fatte le debite proporzioni, sono i cialtroni cowboy degli spaghetti western. E dopo una buona pasta invece bisogna finire con l'ammazza caffè, si dice. Possiamo anche saltare tranquillamente il caffè, passiamo subito al mazza caffè, per molti è la sambuca che qualcuno aggiunge anche al caffè. Sì, la famosa sambuca corretta, a volte è la sambuca che è corretta con il caffè, sì, dipende dalle regioni d'Italia. E la sambuca, oltretutto, fino a un po' di anni fa era assolutamente diventata fuori moda, e ultimamente nelle giovanissime generazioni sta prepotentemente ritornando come un po' il chinotto qualche anno fa. Allora, la sambuca, ne parlavamo prima fuori onda, allora che colore c'ha la sambuca? L'anice stellato, che è l'ingrediente base, insomma c'ha un non colore azzurro, marroncino, ecco, sì, non infatti, è azzurro, però come a volte ghiaccioli, c'è un minimo di colorazione, anche a livello poi pubblicitario si inserisce l'azzurro, però di fatto non è bianco, è trasparente. È trasparente, sì. E allora le cose trasparenti ci avranno pure diritto loro di avere un colore, no? Che sì, dici? Sì, sì, siamo allora d'accordo, certo. Comunque, c'è il fascino della trasparenza, perché è bello cristallo. Esatto, e quindi insomma raccontiamocela che la sambuca è azzurra, anzi è bianca, è profondamente bianca. Concordo. E quindi in quanto tale, non so, il bianco secondo me ha a che vedere anche con l'infanzia, ma un'infanzia onirica. Infanzia di quelle onirica, ecco, profonda, e quindi qua siamo nel cinema, nell'animazione, ma nell'animazione con la maiuscola, quella dei manga, ma nemmeno quella dei manga, è quella di Miyazaki, che è uno dei maestri, direi proprio del cinema in assoluto, dire che sia un regista di animazione è sminuente, e Miyazaki secondo me ha esattamente il balsamico, io almeno sento ogni volta che vedo un suo film, anche quelli più semplici come può essere Ponyo sulla scogliera del 2008, adesso poi ne continuano a uscire anche di recente, che però sono film di anni passati, quindi l'ordine temporale è un po' mescolato. Oppure anche altri invece molto più strutturati, tipo La città incantata del 2001, Principessa Mononoke, che secondo me sono i due suoi capolavori, che hanno un'altra componente della sambuca, che sono le spezie. Quando beviamo un bicchiere di sambuca, nonostante la forte alcolicità, sentiamo questo balsamico che ci entra nel naso e sembra che ci pulisca ogni peccato e ogni cosa, e quindi anche peccato di gola del pranzo appena concluso, e queste spezie che ci danno, insomma, ci mettono di nuovo in moto tutti i sensi, se eravamo un po' assopiti, e questo secondo me insomma è un po' il cinema di Miyazaki. Grazie a Marco Lombardi, vi ricordo il suo sito che è cinegustologia.it, e preparati perché la settimana prossima dovrai parlarci del rosso. Buona domenica. Il riposo del guerriero. Le suggestioni del gastronauta. Arrivato il nostro Davide Paolini con le sue suggestioni, che saluto. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti. Allora, il gastronauta è cultura del cibo, diciamolo. Il cibo è cultura. Sì. Permettimi questo gioco di parole. Chi non pensa questo, chi... ci sono molti che non pensano che il cibo sia cultura. Non ci purtroppo. Credo, però. Sì, guarda. Vorrei conoscere quei molti. Sono anche molti intellettuali. Ah. Sono anche molti intellettuali. E cosa dicono? Che il cibo è tanto lì, tanto io per. Io ho letto due cose di due importanti signori. Uno sul Corriere della Sera e un altro non ricordo su quale giornale, uno era un famoso cantautore, dicevano che ritengono, come posso dire, una stupidaggine, una cretinata chi fa 200 chilometri per andare a mangiare qualcosa o andare a scoprire un prodotto. Scusa, quindi... apro una parentesi, a volte noi nella vita, a tutti è successo, per amore, per piacere di vedere una persona abbiamo fatto anche più di 200 chilometri. Anche poi per non arrivare a niente, ma solo con il gusto di un pensiero. E questo può valere anche per un piatto che altrimenti non mangeresti mai nella tua vita. Allora io ti racconto cosa mi è successo tanti anni fa. Tra l'altro un capitolo di un libro che ho scritto che si chiama La geografia emozionale del gastronauta. Forse non è pure più in libreria, quindi non è che mi faccio molto, molto pubblicità. Ma internet può tutto, quindi dove recuperiamo. Un po' di 10 anni fa. Ho raccontato che... un giorno ho sentito un amico mi ha parlato in maniera entusiastica di un gelato al gelsomino. Sì. Allora mi dice, sai, l'ho mangiato, allora era tra, mi dice, Modica. Ah, non si ricordava neanche bene dove fosse. E allora lui mi dice, però deve essere lì attorno alla gelateria. Beh, allora arriva l'estate e io dico, voglio andare a scoprire questo gelato che non Sicilia, ho mai sentito. In posto. Sicilia. Parto e praticamente alla ricerca di questo gelato al gelsomino, faccio tutta la Sicilia barocca. Hai visto dei posti meravigliosi. Non solo. Scopro Modica, anche col suo cioccolato, sì. ma le bellezze. Scopro Noto, scopro un po' tutti quei posti, Sicli, tutti quei posti che sono veramente magnifici, uno più bello dell'altro. Ragusa Ibla. Quindi scopro un po' tutto, non trovo questo gelato. Non trovo questo gelato. Hai chiesto in giro. Ho chiesto in giro perché l'unica gelateria, lo ricordo ancora, poi siamo diventati molto amici, era il Caffè Sicilia, ma in quei giorni era chiuso, a Noto. Ed era quello col gelato giusto. Era il Tempio. No, lui poi mi ha raccontato che era un altro, non era il Caffè Sicilia perché gli hanno parlato in tutte le maniere. Però, ecco, io attraverso il cibo... Hai conosciuto altro. Ho scoperto l'Italia. Sì. Ho scoperto, la Sicilia barocca, che probabilmente prima o poi ci sarei andato. Ti sto parlando, questa cosa è successa nel 1993. Quindi devo dire che prima o poi ci sarei andato, l'avrei scoperta, perché è impossibile non andare. Poi anche perché ora chi è che non ci va, vedendo in televisione tutti i giorni, appunto, che si fa vedere quest'area attraverso i romanzi, insomma, del grande scrittore. Quindi io dico che molte volte io ho scoperto l'Italia culturale andando prima di tutto in direzione del cibo. Un tempo si diceva vado in quel posto a vedere quel museo e vado in quel ristorante. Oggi si dice il contrario, vado in quel ristorante e scopro il posto. Quindi secondo me invece il cibo serve molto anche alla cultura. Io sono assolutamente concorde con te, perché poi tra l'altro conoscere anche la storia, per esempio, di quello che stai bevendo, no? Quindi i territori dove si producono quei determinati vini, ed è un modo per conoscere anche la natura di quel luogo. E no, questo quindi... Conosci la storia, la tradizione, conosci tutto. Attraverso il cibo, se tu risali, si parla sempre della filiera alimentare. In realtà c'è una filiera culturale. Perché se tu parti da un formaggio che mangi, sì, puoi risalire al casaro, quindi a una tradizione, a una storia. Puoi risalire al latte, quindi all'agricoltura di quel posto. Dall'agricoltura puoi risalire a delle tradizioni, a degli utensili usati nel tempo. Quindi sicuramente... Allora, faccio un esempio che conosco molto bene, ma anche per gli ascoltatori. Il Val d'Aosta, no? La Fontina è il formaggio tipico. Se così si decidesse di andare a vedere dove sono gli alpeggi, dove pascono... quelle mucche e solo quelle danno quel latte che fanno la Fontina, e solo quelle, uno scopre quegli alpeggi e scopre dei posti straordinari. Alpeggi millenari che ancora per molti aspetti sono come erano, e si scopre una cultura, la cultura del paese, del popolo. E quindi non capisco come il cibo non possa essere cultura per qualcuno. Ecco perché partiamo dall'inizio. Soprattutto il prodotto è cultura, perché appunto dietro nasconde tutto questo mondo. Molto meno, molte volte lo nasconde un grande chef, quella è cultura del fare, sì. Però dietro sicuramente al prodotto c'è una storia e delle tradizioni che tu conosci in paese. Beh, devo dire che non voglio fare tante citazioni, però credo che una vada fatta di Italo Calvino, di Sotto il sole il giaguaro, quando scrive che per conoscere un territorio tu devi introitare il cibo di quel territorio, è perfettamente vero. Quindi io credo che questa pagina di Calvino vada letta e riletta, perché secondo me è molto molto importante. Ecco, dovendo fare un percorso culturale dal nord al sud, ci riesce a indicare delle località oppure dei piatti che non possono mancare nella nostra conoscenza, il nostro sapere da questo punto di vista? Partendo dal nord, io credo che i plin piemontesi, se partiamo dal nord, sono molto importanti, perché sono l'indicazione di un viaggio del raviolo che abbiamo, del ripieno, che si parte dal sud, che è molto povero, si arriva al nord. Hanno addirittura tre carni i plin, che è ricco, ad esempio. Quindi sì. Sicuramente quello è fondamentale. Beh, diciamo che la pasta, secondo me, è un percorso molto interessante. Arrivi in Emilia-Romagna, sicuramente lì trovi a distanza di pochi chilometri tortellini, cappelletti, cappellacci, anolini, cioè ognuno di questi ha una sua storia. Poi se scendi giù vai nelle Marche, i vincisgrassi, che anche qui c'è dietro una storia, una tradizione straordinaria. Arrivi più giù, vai a Gragnano, bene, c'è una pasta secca che ha una storia e una tradizione incredibile, che sempre più viene fuori. Vai in Puglia, ci sono i cavatielli, come così pure in Basilicata. In Sicilia ci sono tantissime cose che possono essere culturali, soprattutto i dolci, secondo me, sono importanti. La cassata, ad esempio, la cassata siciliana ha una storia, perché è un incrocio di popoli, quindi di varie dominazioni, quindi sicuramente dietro c'è sempre una storia. A Napoli c'è l'Ubabà è una storia bellissima, perché è una storia di un re polacco, quindi, che era triste, che poi attraverso la Polonia il Babà arriva a Napoli, quindi il Babà è di origine polacca. Quindi poi è arrivato a perché Babà era un nome che si riferiva a questo re, polacco, e poi piano piano, attraverso appunto varie migrazioni, è arrivato a Napoli. Cosa voglio dire? Voglio dire questo, che è importante, perché in questo periodo si parla molto di cucina. La cucina è contaminazione. La contaminazione non si può fermare. Quindi è inutile che stiamo qui a mettere le barriere, le controbarriere alla nostra cucina, dicendo salvaguardiamo i piatti, sì, però non possiamo impedire che con questo flusso di immigrazioni la nostra cucina sia contaminata. Ecco, anche la politica deve venirci incontro. Mi sono dimenticato la Calabria, scusami, perché è importante. Il peperoncino, c'ha una storia straordinaria. Se andiamo a vedere tutti i prodotti che sono a base di peperoncino, e c'è un antropologo calabrese molto bravo, che è Vito Tetti, che dice che l'indice di calabresità si vede dall'uso che si fa del peperoncino. Abbiamo dimenticato sicuramente qualcuno, ma non vogliatecene. Ecco, assolutamente. Grazie al nostro gastronauta, è tutto per questa puntata. Ci risentiamo domenica prossima, puntuali come sempre alle 10 con Il riposo del guerriero, versione estiva, e il colore che abbiamo scelto sarà il rosso ovviamente, come la passione, tutto quello che ci appassiona e che ci fa sentire vivi. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Pietro Lacorte in regia, e a voi buona settimana.